Le origini delle popolazioni indoeuropee, la cultura dei Kurgan tra il V, il IV e il III millennio a.C. Nel 1956, al Congresso internazionale delle scienze etnologiche della Pennsylvania, presentai un intervento dal titolo Mutamento culturale in Europa nel 2000 a.C. e provai a mostrare una mappa dell'espansione della cultura Kurgan chiamata Cultura della tomba a fossa in Europa a partire dall'Ucraina e dalla Russia meridionale oltre il fiume Dnieper. A quel tempo non era stata ancora ideata la tecnologia al carbonio 14 per datare le culture in questa parte dell'Europa. Le lacune cronologiche offuscavano l'intero panorama dello sviluppo culturale e la cultura a nord del Mar Nero era insufficientemente esplorata. Tuttavia, era chiaro che solo una nuova potenza proveniente dall'altra parte del Dniepr avrebbe potuto provocare lo sconvolgimento e la disintegrazione delle antiche e floride culture calcolitiche dell'Europa. Al posto di un complesso mosaico di culture agricole, si disseminano su una vasta area elementi di carattere totalmente differente che fanno pensare al passaggio a un'economia prevalentemente pastorale e a una società patriarcale. Ovunque si trovano tracce di rituali funebri, simboli religiosi, motivi ornamentali e strumenti di lavoro originari delle steppe euroasiatiche. Il termine cultura Kurgan, che significa tumulo in slavo e in turco, fu introdotto da chi scrive, cioè Maria Gimbutas, nel 1956 come termine più generale che sostituisse la cultura delle tombe a fossa. L'economia era prevalentemente legata alla pastorizia. Fin dal periodo Kurgan I incominciò la domesticazione degli animali, bovini, ovini, maiali e soprattutto cavalli. È impensabile che mandrie di cavalli si potessero controllare a piedi. Una serie di frammenti di palchi forati, curvati, dritti o biforcuti, trovati nei siti a nord e a ovest del Mar Nero, risalenti al V millennio, fanno pensare che fossero usate come parti di una briglia. Statuette piatte a forma di testa di cavallo, probabilmente usate come scettri dai poteri magici protettivi, sono state scoperte nella regione del Basso Volga, nelle steppe a nord del Caucaso, in Ucraina, in Moldavia, in Transilvania e in Jugoslavia meridionale. Alcune furono trovate all'interno di tombe tipicamente Kurgan. Il popolo Kurgan viveva nella steppa e nella zona mista tra steppa e foresta, ma nel V e nel IV millennio il clima era più caldo e più umido di quanto sia oggi e quella che ora è la zona stepposa allora era più alberata. L'agricoltura era praticata, ma non altamente sviluppata. In tutta la regione pontica sono stati trovati solo pochi falcetti in selce. I resti di veicoli a due o quattro ruote, di quercia, con ruote piene e i loro modellini in argilla sono stati trovati nella regione del Basso Dnieper e del Volga, nelle sepolture. Il popolo Kurgan nel Caucaso nord-occidentale conosceva la lavorazione del rame, dell'argento e dell'oro da circa la metà del III millennio a.C. La ceramica era grezza e non dipinta. L'argilla veniva mescolata a conchiglie sminuzzate e sabbia. Le forme erano estremamente tradizionali, consistenti in recipienti ovali puntinati con colli di varie dimensioni. C'erano due tipi di insediamento, i semplici villaggi e le fortificazioni. I piccoli villaggi erano collocati sugli argini dei fiumi e consistevano in una serie di piccole abitazioni rettangolari, semi-interrate, per un numero da 10 a 20, con tetti spioventi supportati da sottili pali di legno. Furono trovati anche dei focolari a muro, di solito uno per abitazione. In alcuni villaggi furono trovate quasi 200 case. I siti fortificati si collocavano sulle sponde ripide dei fiumi, in luoghi di difficile accesso, solitamente su promontori alla confluenza di due fiumi. Vi è un sito fortificato con grandi mura alte 3 metri, composte da circa 10 file di grandi pietre che circondavano l'insediamento dalla parte interna. Case rettangolari in tronco d'albero lunghe fino a 45 metri, basate su robuste fondamenta di pietra, avevano due, tre o più stanze di grandi dimensioni. Vi è un sito con 50 piccole abitazioni disposte in file lungo la strada pavimentata che conduce alla cima della collina, e due grandi case di legno, forse la dimora regale, sul terrapieno. In questo villaggio fortificato potevano vivere all'incirca 250 persone. Le fortificazioni summenzionate possono essere considerate centri tribali e sono i prototipi delle successive città-fortezza greco-micenee, illiriche, celtiche, baltiche, slave, germaniche e in generale indoeuropee, ovvero i luoghi di dimora del capo di una tribù o dei suoi subordinati. I membri della classe dei sovrani e di quella dei guerrieri si riconoscono dalla ricchezza eccezionale delle loro tombe. Alcuni di questi uomini accumularono una quantità sorprendente di oro, argento e pietre preziose. Solitamente le tombe regali sono collocate a una certa distanza dal cimitero degli altri membri della società. Le tombe comuni spesso contengono solo un vaso, un oggetto di selce, o nemmeno quello, indice di disuguaglianza sociale. I riti funebri indicano non solo le differenze sociali, ma anche il ruolo sociale dominante del maschio. La prima tomba, quella centrale in un tumulo, di solito appartiene a un uomo, forse il padre di famiglia o l'anziano del villaggio, e le tombe delle donne e dei bambini occupano posizioni secondarie. L'antica usanza indoeuropea, secondo la quale il padre di famiglia aveva diritti illimitati di proprietà sulla moglie e sui figli, nonché quella per cui la moglie avrebbe dovuto morire con il marito, sono indicate archeologicamente dalle frequenti tombe doppie di uomo e donna e di adulti con uno, due o più bambini sepolti insieme. L'analisi ossea dimostra il legame di parentela. Dalle tombe sappiamo che questi popoli credevano fermamente nella vita dopo la morte, una vita che in fondo non doveva differire molto da quella terrena. Infatti, le tombe erano del tutto simili a case e i morti erano equipaggiati con armi, strumenti di lavoro, ornamenti e perfino veicoli. Tombe di animali e fosse per le offerte o ossa di animali indicano l'importanza dei culti e attestano la diffusione di sacrifici di buoi, cavalli, cervi, orsi, pecore o capre, uccelli e lepri, perfino serpenti. Il sacrificio umano è dimostrato dalla disposizione di ossa umane separate in fosse vicino alla tomba. Gli animali erano solitamente seppelliti insieme al loro padrone. Ma la loro carne veniva consumata e le ossa maggiori raccolte all'interno di pelli e seppellite insieme al morto. Le tombe a forma di casa dei Kurgan, fatte di tronchi o di lastre di pietre, erano coperte con un mucchio di terra o di pietre, poi chiuse con una stele di pietra. La stele in origine presentava incisioni con forme umane e in alcune di esse si indicavano gli attributi maschili. La figura reggeva in mano un'ascia o una mazza. La stele probabilmente ritraeva una divinità maschile, forse un dio del tuono. Le asce a martello danno più l'idea di essere le armi del dio del tuono, imbevute del mana del dio, che di un guerriero umano. La presenza di una divinità o di più divinità maschili contrasta con il prevalere delle statuette simboliche femminili presenti nelle culture matrifocali anatoliche, egee e balcaniche, prima dell'espansione dei Kurgan. Statuette di toro, cervo e leone, di rame o d'oro, sono state trovate nelle tombe regali del terzo millennio. Tra i simboli sui vasi troviamo il serpente e il sole obliquo. Il fatto che il popolo Kurgan scolpisse il sole o il simbolo della ruota in quasi tutti gli oggetti ritualmente importanti testimonia della preminenza del culto del sole e del significato del simbolismo legato alla rotazione dell'anno. La presenza di bracieri accuratamente costruiti, trovati nelle case e nelle tombe, suggerisce la perpetuazione del fuoco come elemento sacro. Carbone, cenere o pezzi di escrementi di mucca carbonizzati indicano l'utilizzo di appositi piatti come bracieri. L'abbondanza di ocra, carbone e ceneri nelle tombe indica l'importanza rituale del fuoco e del colore rosso dell'ocra. Calderoni di metallo e altri contenitori probabilmente si usavano in riti connessi al culto dell'acqua. Le prime tombe Kurgan sono note dalle steppe tra il fiume Don e gli Urali, a nord della catena del Caucaso e a nord del Mar Caspio. La maggior parte di esse si trovano nella regione del Basso Volga, a ovest del Don, a nord del Mar d'Azov, in Crimea, nella regione del Basso Dnieper e del Dniester. Il popolo Kurgan apparve come invasore. Qui esso trovò pescatori e allevatori locali. Attorno al 2300 a.C. si possono far risalire le grandi distruzioni in Anatolia e nell'area Egea. Questo periodo segna la fine di un'era nel mondo egeo. L'altro territorio in cui le invasioni di popoli Kurgan provocarono dei notevoli cambiamenti negli sviluppi culturali fu quello siro-palestinese. Gli archeologi palestinesi concordano all'unanimità sul fatto che alla fine dell'età del bronzo in Palestina ci fu un'interruzione completa e assoluta in cui gli abitanti di città furono sostituiti da pastori seminomadi che non avevano interesse per le città in muratura. Con le migrazioni tardo-Kurgan terminò il lungo ciclo dei movimenti che si erano protratti per quasi 2500 anni, e attraverso i quali il comune linguaggio indoeuropeo si disseminò da un'area limitata a tutto il continente europeo e in molte zone del vicino Oriente. L'Europa e parti del vicino Oriente subirono una mutazione culturale. La fase successiva fu la formazione di unità culturali individuali separate, molte delle quali proseguirono le caratteristiche Kurgan fino all'epoca storica e fino al presente. Conclusioni. La cultura Kurgan del V e del IV millennio a.C. può essere considerata una protocultura di tutte le successive manifestazioni Kurgan nell'età del bronzo e del ferro in Europa e nel vicino Oriente. La cultura Kurgan si sviluppò probabilmente da un gruppo mesolitico in un'area geografica limitata tra il fiume Don e gli Urali meridionali. Durante il quinto millennio a.C., il popolo Kurgan fu in possesso di cavalli addomesticati e probabilmente fu introdotto il carro a traino nell'area delle steppe intorno al quarto millennio a.C. L'allevamento di bestiame bovino ed equino era la principale attività economica. Il popolo Kurgan usava oggetti fatti di rame puro o arsenicato fino dal quarto millennio a.C. Si può supporre che il popolo Kurgan usasse i fiumi per la navigazione e che dall'inizio della sua espansione navigò nel Mar Nero e anche nell'Egeo, nel Mediterraneo e nell'Adriatico. Linguistica e archeologia concordano nel mostrare che il popolo Kurgan fosse piuttosto mobile. La presenza di castri, in greco polis, con case regali o palazzi e quartieri residenziali per la classe dominante e piccoli villaggi nelle vicinanze del centro tribale, è conforme all'evidenza linguistica che indica che la società indoeuropea primitiva era divisa in caste, la nobiltà guerriera e i lavoratori. La cultura proto-indoeuropea si basava su famiglie patriarcali, patri locali. Vi sono indubbi indizi di patrilinearità. In quanto alla religione, alcuni elementi della religione del popolo Kurgan fanno pensare all'esistenza di un dio del tuono e a culti legati al sole, al fuoco, al cavallo, al toro, alla volpe, al cane, al cinghiale, al serpente. È attestata una forte credenza nella vita dopo la morte, accompagnata dalla frequente pratica di sacrifici animali e umani. Il cerimoniale non era altamente sviluppato, non sono mai stati trovati dei veri e propri santuari, probabilmente i culti si celebravano all'aperto. L'aumento delle mandrie e della popolazione, la comparsa di veicoli e di carri da battaglia, l'uso dei cavalli per il trasporto, furono ovviamente fattori decisivi per l'espansione della nobiltà guerriera Kurgan. Si possono riconoscere le seguenti fasi di espansione. Una prima espansione nell'area balcanico-danubiana nella prima metà del IV millennio a.C., ovvero nelle regioni dell'attuale Europa sud-orientale e successivamente in Nord Europa. Una seconda espansione in Transcaucasia, Iran e parti dell'Anatolia durante la seconda metà del IV millennio a.C., ovvero verso l'Asia centrale. E infine invasioni o espansioni nell'area Egea e Adriatica e in Siro-Palestina, e probabilmente in Egitto intorno al 2500-2200 a.C. Il termine espansione dovrebbe essere inteso come una infiltrazione. La tradizione Kurgan, caratterizzata da un'economia pastorale, da una struttura sociale gerarchica, da insediamenti stagionali, piccole abitazioni semisotterranee e case più grandi del capotribù, riti funebri che includono sacrifici umani e animali e sistemi simbolici con il sole come motivo dominante, si è imposta per millenni in ogni regione geografica in cui giunsero i Kurgan e in ogni popolazione locale cosiddetta kurganizzata. L'Europa antica era una civiltà molto sviluppata, insediatasi principalmente nell'Europa sudorientale, che durò 3 millenni, dal 6500 al 3500 a.C. circa. Intorno al 4400-4300 a.C., nel bacino danubiano e intorno al 3500 a.C. nell'Ucraina occidentale e in Moldavia, queste tradizioni millenarie furono troncate di netto. Città e villaggi furono rasi al suolo, sparì la magnifica ceramica dipinta e così pure gli altari, gli affreschi, le sculture, i simboli e le primissime testimonianze di scrittura. Il gusto per la bellezza e la sofisticatezza dello stile e dell'esecuzione delle ceramiche svanirono. L'uso di colori vivaci scomparve in quasi tutti i territori antico-europei, tranne che in Grecia, nelle Cicladi e a Creta, dove le tradizioni antico-europee continuarono per più di 3 millenni, fino a circa il 1500 a.C. Il drammatico sconvolgimento dell'Europa antica è testimoniato dai reperti archeologici. La brusca cessazione della ceramica dipinta e delle statuette, la disintegrazione di città egualitarie e la fine di simboli e segni lineari è concomitante con l'improvvisa comparsa di armi e cavalli. Le culture antico-europee e Kurgan erano agli antipodi l'una dall'altra. Le popolazioni antico-europee erano orticoltrici sedentarie, inclini a vivere in grandi agglomerati ben pianificati. L'assenza di fortificazioni e di armi attesta l'indole pacifica di questa civiltà egualitaria che era matrilineare e matrilocale. Il sistema Kurgan era composto da unità di mandriani patrilineari, che vivevano in piccoli insediamenti stagionali e allevavano i loro animali in vaste aree. Un'economia era basata sulla coltivazione, l'altra sull'allevamento e la pastorizia. Le ideologie a esse sottese erano opposte. Il sistema di credenze antico europeo si concentrava sul ciclo agricolo di nascita, morte e rigenerazione incarnato nel principio femminile, una madre creatrice. L'ideologia Kurgan, come si evince dalla mitologia comparata indoeuropea, esaltava invece gli dei virili, guerrieri eroici, patroni del fulmine del cielo tonante. Nell'immaginario antico europeo non esistevano le armi, mentre lo stiletto e l'ascia da combattimento sono simboli dominanti dei Kurgan che, come tutti gli indoeuropei storicamente noti, glorificavano il potere letale della lama tagliente. Il cavallo addomesticato, a quanto sembra, fu la prima causa, nonché il primo mezzo della comparsa dei Kurgan provenienti dalle steppe boschive a nord del Mar Caspio e del Mar Nero. L'addomesticamento dei cavalli sembra aver prodotto uno squilibrio tra l'approvvigionamento di terreni di pascolo nelle steppe della Russia meridionale e il bisogno di cibo per le mandrie che diventavano rapidamente sempre più numerose. Piccoli gruppi di Kurgan semisedentari molto probabilmente mossero le loro mandrie a ovest del Mar Nero, dove terreni ad alto contenuto di limo rappresentavano il pascolo ideale. È facile ipotizzare che i Kurgan preferissero occupare zone già coltivate piuttosto che mettersi a coltivare la steppa. Le prime tombe Kurgan in Europa. Segno dell'abbandono definitivo delle tombe a fossa collettive delle aree antiche europee sono le tombe a tumulo che contengono doni funebri degni di un condottiero o di un guerriero. Mentre il rapporto delle sepolture maschili e femminili nell'antica Europa era pressoché uguale, le tombe Kurgan sono quasi esclusivamente maschili. Una coscienza guerriera fino ad allora ignota nell'antica Europa è attestata dal corredo trovato nelle tombe Kurgan: archi e frecce, lance, coltelli da taglio da combattimento, ovvero proto-stiletti, asce di palco e ossa di cavallo. In virtù della loro mobilità, i popoli delle steppe erano commercianti provetti. Gli oggetti di lusso con cui imbastivano i loro commerci erano appannaggio di un numero relativamente ristretto di persone che formavano una classe dominante privilegiata. La civiltà cucuteniana, ovvero dell'area moldava dell'antica Europa, sopravvisse alle invasioni dei Kurgan più a lungo delle culture antico-europee del sud e dell'ovest. Si è presunto che le grandi comunità cocuteniane, talvolta composte da più di 1.000 abitazioni per un territorio di 300-400 acri, non potessero essere facilmente sopraffatte. Lo sviluppo di meccanismi difensivi in questo periodo mostra una crescente ansietà nei confronti degli invasori da parte delle antiche culture matrifocali. Riassumendo, la prima ondata di pastori dalle steppe euroasiatiche invase l'Europa tra il 4400 e il 4300 a.C. Le conseguenti ripercussioni furono la completa distruzione della civiltà Caranovo, l'attuale Romania meridionale e Bulgaria, e invece la coabitazione di complessi Kurgan e Cucuteni. La civiltà Cucuteni, grazie ai suoi insediamenti disposti su alte terrazze, fu in grado di difendersi dalle incursioni dei popoli della steppa. La civiltà Caranovo, invece, e le sue ramificazioni nella regione del Basso Danubio, furono sottomesse e disperse. Il processo culturale in Europa durante il IV millennio a.C. è caratterizzato da drastici mutamenti nei modelli ideologici e socio-economici. Questa trasformazione fu iniziata dai pastori delle steppe euroasiatiche, il cui successo fu dovuto alla straordinaria mobilità e al superiore equipaggiamento militare. La struttura sociale stratificata, patrilineare di queste piccole unità di allevatori, si impose sul substrato egualitario degli agricoltori antico-europei. Il passaggio all'allevamento su larga scala fu solo un sintomo del processo di kurganizzazione. Il popolo delle steppe portò con sé una nuova ideologia, basata su divinità maschili del cielo, della guerra e della caccia. Segni solari, dei armati e ruoli rituali del cavallo, del cinghiale e del cane sostituirono i simboli antico-europei connessi alla madre creatrice e al simbolismo lunare. Questo si nota in particolare nella comparsa di tombe di capi elaborate, sontuosamente arredate, che servono come altrettanti marcatori archeologici del percorso che la prima ondata tracciò lungo l'Europa. Al termine del IV millennio, la società era dominata dai maschi.